Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi, dalla redazione di Radio 24. Nell'Unione Europea almeno una cosa che funziona c'è ed è il patto di stabilità. Lo ha rivendicato Jean-Claude Juncker, portando l'esempio dell'Italia che ha avuto 19 miliardi. Ieri sera Matteo Renzi ha assicurato che il prossimo anno l'Italia rispetterà le regole europee, anche se sono regole capestro, ma dall'altra garantisce che le spese per l'immigrazione, il rischio sismico saranno fuori dal patto. Insomma, permane uno scontro di idee tra Unione Europea e Italia. È una partita eminentemente politica, quella che si giocherà nelle prossime settimane tra Roma e Bruxelles sul prossimo bilancio italiano per il 2017. In questi giorni non mancano le schermaglie tra il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il premier italiano Matteo Renzi. Sono prese di posizione a uso e consumo del pubblico italiano ed europeo. Nei fatti le trattative sono aperte. L'esecutivo comunitario è consapevole delle difficoltà economiche dell'Italia e conosce i rischi di instabilità politica insiti nel referendum costituzionale previsto in autunno. Non vuole creare nuovi contraccolpi a Roma. Al tempo stesso crede nel rispetto delle regole, pur flessibili, e sa che molti governi europei non possono accettare un'applicazione troppo discrezionale del patto di stabilità e di crescita, col rischio di creare malcontento a casa. Una soluzione si troverà, ma richiederà molto probabilmente un nuovo esercizio di diplomazia. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. È costato a Boris Johnson un rimprovero di Downing Street, come scrivono oggi in prima pagina il Financial Times e il Daily Telegraph. L'intervista di ieri a Sky News, nella quale il ministro degli esteri britannico ha annunciato dagli Stati Uniti l'intenzione di Londra di attivare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona per dare avvio formale ai negoziati di divorzio dall'Unione Europea, diceva all'inizio dell'anno prossimo. L'ufficio del primo ministro non l'ha smentito in modo netto, ma per bocca di un portavoce si è affrettato a precisare che la decisione di far scattare l'articolo 50 spetta a Theresa May. Diffusi gli ultimi dati preliminari relativi all'indice PMI manifatturiero dei servizi dell'Eurozona per il mese di settembre. Scende ai minimi da 20 mesi il PMI composito dell'Eurozona, che si attesta a 52,5. Nel dettaglio, l'indice manifatturiero stilato da Markit è in crescita, mentre è in calo il settore dei servizi, che scende a 52 punti. A pesare soprattutto il settore dei servizi in Germania, che è appena sopra la soglia di demarcazione. In netto miglioramento, invece, l'indice dei servizi in Francia, salito a più di 54 punti. Segnali di crescita anche per l'attività manifatturiera francese, con un rialzo a 49,5. Lettura ancora peggiore delle attese degli economisti, invece, per quanto riguarda il PIL francese, al ribasso dello 0,1%. Eugenia Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Italia sta lavorando per l'attivazione del Fondo di Solidarietà Europeo, che servirà, lo ricordo, a contribuire alla ricostruzione delle zone del centro Italia colpite dal sisma. Lo ha detto oggi il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi ad un mese dal sisma. Ha detto: non andiamo lontano se diciamo che il danno non sarà meno di 3-4 miliardi di euro e i danni cospicui credo siano cifre in difetto. 14:06 minuti su Radio 24, vi ricordo che Europa 24 torna questa sera. Petto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.